Bene, allora direi che possiamo iniziare. Innanzitutto buonasera a tutte, buonasera a tutti. Grazie per essere venuti qui stasera, in particolar modo viste le condizioni meteo e climatiche non particolarmente favorevoli. Però insomma, se è possibile, cercheremo di scaldarci un po', almeno idealmente, parlando di questo progetto, parlando di questo libro. Zero in condotta, 10 anni di movimenti a Bologna di zig.it, più una serie di appunti sull'informazione autogestita, in particolar modo su cos'è l'informazione autogestita oggi. Due brevissime informazioni di servizio: innanzitutto che insomma il libro è disponibile per la vendita nel banchetto che c'è lì nell'angolo in fondo alla sala, oppure c'è la possibilità di prenotarlo, di acquistarlo e riceverlo direttamente a casa anche tramite la piattaforma online OpenDDB, insomma distribuzione dal basso, dove appunto è possibile insomma fare la prenotazione, la richiesta e il pagamento e far arrivare questo libro a casa vostra o a casa di chiunque vogliate, se volete fare un regalo a nostro avviso, a mio avviso, utile e interessante. Io ho il compito di fare soltanto una breve introduzione in virtù del fatto che insomma, ho avuto l'occasione, la possibilità, la fortuna di conoscere questo progetto, questa esperienza sin dall'inizio, sin dalle, insomma, dalle primissime battute ormai 10 anni fa e anche qualcosina in più, e in più anche per l'occasione di approfondire, di insomma fare un approfondimento sia sulla sua natura che sull'evoluzione di questa esperienza in un periodo molto più recente, tramite una tesi di laurea in giornalismo dedicata proprio a questo progetto, il cui materiale è poi diventato parte integrante del volume che presentiamo questa sera. Dopodiché poi passerò la parola alle altre persone che vedete qui con me sul palco o non sul palco, che insomma sono collaboratori, redattori del giornale di Zero in Condotta, che magari avranno la possibilità poi di scendere un po' più nel dettaglio. Cos'è Zero in Condotta? Probabilmente se siete qua lo sapete un po' tutti, però insomma diciamo che provo un attimo con poche parole a ripercorrere il nocciolo di questo progetto, come potete vedere da quello che c'è poi anche sulla testata, dal modo in cui comunemente viene definito questo progetto. È un quotidiano online autogestito a Bologna. Magari è una definizione un po' lunga, però è una definizione a cui la redazione ha sempre tenuto molto, perché ognuna di queste parole, quotidiano online autogestito a Bologna, restituisce un pezzo delle motivazioni che hanno portato alla nascita di questo progetto, restituisce una parte della sua natura, restituisce insomma un po' anche gli obiettivi che dall'inizio questa esperienza si è posta, e che non sarà ovviamente né a me né alla redazione valutare, ma che insomma probabilmente almeno in parte, almeno in buona parte sono stati raggiunti, tant'è che comunque un'esperienza di questo genere sono ormai 10 anni che prosegue e va avanti, per cui evidentemente almeno le motivazioni di fondo che hanno portato alla sua nascita si sono dimostrate reali, vere, valide, ed evidentemente si sono poi nel tempo anche trovati gli strumenti adatti per riuscire a fare di questo un progetto che comunque nel tempo si è consolidato, poi con le sue potenzialità e ovviamente anche i suoi limiti, ma insomma 10 anni dopo si è qui a poterne parlare, a poter presentare poi un libro che raccoglie questi 10 anni. Zero in Condotta, quindi prendendo una parola per volta, è un quotidiano, nel senso che realmente è un'esperienza che si pone l'obiettivo, pratica l'obiettivo di fare informazione in maniera quotidiana, tutti i giorni. Ma è un quotidiano anche perché si pensa davvero come un giornale, non un giornale mainstream, un giornale autogestito, organizzato, orizzontale, ma troverete nel libro, nell'introduzione, insomma nelle valutazioni più approfondite della seconda parte del volume, non semplicemente una bacheca su cui riportare quello che succede o le valutazioni che possono riguardare le tematiche su cui questo progetto si sviluppa, ma un giornale vero e proprio che prova a, a ragionare, a pensare come farebbe, come fa una redazione, anche se con delle modalità sicuramente molto peculiari. Peculiari perché appunto Zicco è un quotidiano autogestito, nel senso che tutto il lavoro è sviluppato e portato avanti in maniera orizzontale, in maniera applicando un po' tutti i principi che poi vivono nell'auto-organizzazione di progetti che possono riguardare la comunicazione e l'informazione autogestita, ma anche tanti altri settori su cui i movimenti sociali in maniera organizzata o individuale con cui questi movimenti si misurano. È online, questa è la cosa insomma, più intuitiva, perché è spiccatamente un progetto di natura che si è sviluppato sul web, di natura multimediale, anche se trae origine da precedenti esperienze cartacee, prima Zero in Condotta, prima ancora Mongo e Fiera, e anche se tutt'oggi, nonostante lo sviluppo preeminentemente online, ancora ogni tanto ha dei richiami anche alle, diciamo così, alle sue radici, perché capita di produrre dei prodotti fisici, materiali, cartacei, che magari servono un po' a fissare alcune delle inchieste o dei lavori di approfondimento che trovano poi il loro spazio sul sito web. Ed è un quotidiano autogestito a Bologna, perché pur avendo dedicato nel corso degli anni spazio anche a notizie, ad approfondimenti, interviste di carattere non strettamente locale, regionale, nazionale o internazionale, però rispecchia una natura che in maniera principale è locale, questo anche per scelta, nel senso che, come poi magari avranno modo di dire i redattori e i collaboratori dopo di me, questa scelta, questa vocazione sicuramente molto combacia con alcune delle caratteristiche di fondo che fanno di Zero in Condotta il prodotto, il progetto, l'esperimento in continuo divenire comunque che conosciamo, che conoscete. Troverete nell'introduzione, anche nella quarta di copertina, alcuni numeri, non tanti, ma quelli che insomma è sembrato alla redazione opportuno segnalare per dare un po' l'idea del volume. Devo leggere i numeri, grazie. Il volume un po' di questo progetto, di come insomma si è sostanziato in questi anni. In una decina d'anni si parla quindi di oltre 12.000 articoli, di 15.000 fotografie, quasi un migliaio di file audio, 400 video e 10.000 appuntamenti segnalati in agenda, insomma, per far vedere un po' tutti gli eventi di natura politica, sociale e culturale che i movimenti, i centri sociali, i collettivi, i sindacati di base, le realtà di movimento insomma, in questa città producono quotidianamente, non sono pochi e insomma, sicuramente non è una cosa da poco riuscire un po' a avere anche una fotografia immediata di più o meno tutto, tranne nei casi in cui magari può capitare di perdersi qualcosa, tutto quello che questo mondo variegato produce. Questi sono alcuni numeri, sono alcune piccole coordinate che servono a dare un po' la dimensione di come questo progetto si è sviluppato negli anni. È evidente che raccontare un'esperienza di questo tipo solo attraverso questi numeri o anche altri, insomma, sarebbe probabilmente molto riduttivo e anche molto poco interessante, perché diciamo che non riuscirebbero in ogni caso le cifre a restituire alcune peculiarità, alcune specificità che dall'inizio oppure nel corso degli anni hanno fatto crescere e vivere questo progetto di comunicazione e di informazione soprattutto autogestita. Il libro prova un po' a fare il punto su tutto questo, lo fa organizzato in due parti principali. Prima di queste due parti, in realtà mi fa molto piacere segnalare la prefazione di questo libro, che è stata firmata da Valerio Evangelisti, cosa che a mio avviso particolarmente significativa, non solo perché Valerio Evangelisti è uno scrittore affermato, perché è una persona da sempre dentro e a fianco dei movimenti sociali, ma anche perché diciamo, sa di cosa parla, nel senso che è poi anche una persona che negli anni è stata direttamente impegnata ed è tuttora impegnata anche in progetti di informazione e di comunicazione autogestita, attualmente ancora diciamo, anima e ispiratore del sito Carmillo Online. Al di là della prefazione, come dicevo, il libro si sviluppa su due parti fondamentali. La prima è insomma, una specie di piccola antologia di quello che è passato sulle pagine di Zero in Condotta in questi 10 anni, perché troverete anno per anno degli articoli che un po' ripercorrono le notizie che su Zero in Condotta sono state riportate di volta in volta, anno dopo anno, e in più anche una selezione di materiali, una selezione di articoli essere scelti della redazione, diciamo non tanto sulla base dell'importanza delle notizie in senso assoluto, ma perché magari sono articoli più originali, danno l'idea di come ha lavorato questa esperienza e di come è riuscito, insomma, in alcuni casi anche un po' ad imporre i temi sollevati anche all'agenda politica della città, all'agenda mainstream, e quindi diciamo questa prima parte è una sorta di viaggio, di carrellata negli ultimi 10 anni di movimenti a Bologna, vissuti attraverso le pagine di Zero in Condotta e quindi di conseguenza anche dei 10 anni di Zic, che questi movimenti li ha vissuti molto da vicino, se non dall'interno. La seconda parte invece è quella che viene definita una raccolta di appunti sull'informazione autogestita. Sostanzialmente si tratta di un'intervista collettiva in cui è la stessa redazione a prendere parola, ad interrogarsi e insomma, un po' a fare il punto della situazione su alcuni nodi tematici, su alcuni spunti che credo siano significativi e utili su un doppio livello, sicuramente perché fanno capire molto di come funziona l'esperienza, il progetto Zero in Condotta, perché appunto si va, diciamo, ad approfondire anche le dinamiche che stanno dietro poi alla pagina che ognuno di noi, di voi, può vedere dietro il computer. Però diciamo che l'ambizione, secondo me, concretizzata, è anche quella di pensare che questi ragionamenti, questi spunti che vengono un po' elaborati attraverso questa intervista collettiva possano essere utili anche a, diciamo, cogliere degli spunti, fare delle valutazioni, stimolare dei ragionamenti anche di natura più ampia, più generale, quindi non tanto e non solo su zic.it in quanto tale, ma più in generale sull'informazione autogestita, su come in questi 10 anni e come poi vediamo tra un attimo anche prima si è sviluppata e di come magari potrà continuare a svilupparsi nei prossimi anni. Io mi fermo qui, passo per prima cosa la parola a Valerio, al quale chiedo se, diciamo, un po' di fare un piccolo passo indietro e quindi di spiegare come questa esperienza di Zero in Condotta in versione multimediale online prenda spunto, insomma, porti avanti il lavoro che in molti anni precedenti era stato portato avanti da alcune esperienze allo stesso modo autogestite di, insomma, di informazione, di comunicazione indipendente in questa città, e contestualmente anche magari un po' di inquadrare come questo filone, che rappresenta un pezzo di quello che i movimenti hanno realizzato in questa città negli ultimi anni e decenni, vada appunto ad inquadrarsi nel contesto specifico di Bologna. Insomma, perché esiste oggi un giornale come... perché è esistito Zero in Condotta nella sua forma cartacea, perché oggi esiste secondo te zic.it. Ma che in questa città ci sia sempre stata una, in primo luogo un'esigenza di comunicazione autogestita, di informazione autogestita, cioè di farsi carico da parte di realtà di movimento o di realtà politiche al di fuori dei circuiti istituzionali o di circuiti che contavano, cioè un'esigenza di trasmettere le proprie idee, le proprie esperienze, le proprie sensibilità, non è una cosa appunto che è nata di recente, una cosa molto lunga. Cioè, mi piace ricordare in questa occasione il fatto che forse se questo giornale autogestito esiste, come in precedenza sono esistite altre esperienze di informazione indipendente, autonoma a Bologna, è perché in questa città, per esempio negli anni 60, c'era una persona come Roberto Roversi che oltre a essere un poeta straordinario, era una persona che attorno a sé, a partire dalla libreria Palma Verde, costruiva in continuazione possibilità di mettere in piedi riviste, giornali, e utilizzava il momento redazionale, insomma, per la produzione di queste forme di comunicazione come un elemento di elaborazione molto importante. Dico questo perché l'informazione tradizionale a Bologna fino a un certo punto, insomma, quando era, diciamo, in quegli anni, aveva due caratteristiche: c'era il giornale dei padroni, che prima era stato il giornale dei fascisti, Il Resto del Carlino, insomma, che per tutti gli anni della lotta di liberazione era stato il giornale del potere fascista in città, e da là a questo giornale, che poi dopo la liberazione si era contrapposto l'Unità come il giornale del partito, ma del partito che era anche il governo della città. Un giornale che non era solo un giornale di tipo politico, ma c'era anche una redazione appunto locale, che faceva cronaca, che parlava di cultura, di musica e quant'altro. Di fronte a questa situazione però c'era un'esigenza che già da allora era uscita in maniera molto forte da parte di realtà che non si riconoscevano in questi due ambiti, e attorno a Roberto Roversi appunto si formarono diverse esperienze editoriali. Poi un altro elemento importante, secondo me, che fa parte di questo lungo percorso che ci porta fino ad oggi, non è esagerato secondo me dire queste cose, cioè anche, non è nemmeno una forzatura, perché comunque se Zic riesce a stare in piedi, a avere un ruolo in questa città da 10 anni, perché appunto questa esigenza ancora oggi con modalità e con forme diverse è molto forte. Bene, tornando, facendo un passo indietro, l'altra esperienza significativa è quella dei giornali del 77, l'esplosione della comunicazione attraverso la carta stampata. Da una parte Radio Lice, che rappresentò un elemento molto importante di novità, insomma, e di utilizzo di uno strumento comunicativo da parte del movimento, ma dall'altra, l'altro aspetto significativo è appunto il fatto che in tutti i mesi del 77 ogni collettivo di università, di scuola media, di fabbrica, di quartiere aveva il proprio giornale. Aveva il proprio giornale perché ci fu anche un cambiamento dal punto di vista della stampa, nel senso che si passò dallo strumento tipografico tradizionale, quindi uno strumento che non era di facile accesso, alla litografia, che permetteva di costruirsi un giornale con pochissimi mezzi, montandolo, ricostruendolo direttamente, insomma, e quindi la redazione e chi aveva il compito di realizzare i giornali erano la stessa cosa. E quindi se in questo periodo appunto ci fu questa grande esplosione di strumenti di carta stampata, E oggi, per esempio, nel centro di documentazione che abbiamo qua al piano di sopra, abbiamo la testimonianza di questa grande ricchezza comunicativa, che era una cosa necessaria, perché non c'era nessuno in quel momento, nella stampa tradizionale, che fosse capace, o nell'informazione tradizionale, che fosse capace di interpretare l'esplosione di un movimento come quello del 77, che aveva caratteristiche completamente diverse anche dagli elementi di conflitto sociale dei decenni precedenti. Questa grossa ventata, insomma, di autonomia su tutti i livelli portò negli anni successivi del 77, cioè in una fase di riflusso, quella degli anni 80, dove appunto ci fu un recupero molto forte da parte del potere di queste esperienze di autonomia sociale, uno strumento di resistenza fu ancora in questo ambito quello di costruirsi un giornale per conto proprio. Un giornale che partiva dall'esperienza di lotta di fabbrica, può sembrare paradossale, quel giornale fu un giornale formato a livello redazionale da un collettivo di ex operai che prima avevano fatto giornali di fabbrica e che a un certo punto decisero che la fabbrica, quell'esperienza della lotta di fabbrica era finita e anche della vita di fabbrica era finita e si trattava di tentare un'esperienza su un terreno che interessava a molti di loro, sul terreno appunto dell'informazione. E quindi, a partire appunto anche dall'esperienza precedente, si decise di costruire una cooperativa editoriale che diede alla luce il giornale Mongolfiera e che diede alla luce questo giornale in una forma anche abbastanza, tra virgolette, antistorica, nel senso che era un giornale che veniva realizzato dall'inizio alla fine, furono comprate anche delle macchine da stampa e il giornale veniva stampato, una cosa sicuramente antistorica rispetto a quel periodo, quando i livelli di stampa insomma più normali avevano anche degli elementi di produzione completamente diversi. Quel giornale nacque come giornale che aveva un'attenzione particolare a un mondo che in questa città stava emergendo, che era quello dell'associazionismo, delle forme di espressione culturale dal basso, dell'underground musicale, dell'underground teatrale, tutte forme di espressione culturale soprattutto, più che politica, che non trovavano comunque una qualsiasi forma di attenzione nella stampa ufficiale. E quindi questa esigenza veniva in qualche modo rappresentata da questa esperienza. Un'esperienza che poi si andò a politicizzare sempre di più, perché arrivando ai primi anni 90, con i primi flussi migratori significativi, che rappresentarono comunque anche uno sconvolgimento rispetto a logiche politiche di governo della città che erano andate avanti fino agli anni precedenti, la grossa presenza migratoria, l'apertura di centri di prima accoglienza con tutta una serie di questioni sociali che nuove rispetto appunto all'andato precedente che si viveva in città, modificò anche la forma politico-redazionale del giornale, insomma, cioè quindi ci fu, oltre all'attenzione a tutti gli elementi di cui parlavo prima, insomma, dell'humus culturale di base di questa città, anche all'attenzione di questi nuovi fenomeni sociali, quindi a cominciare a parlare di migranti, cominciare a parlare delle questioni abitative che divennero un elemento già da allora di emergenza sociale molto forte, alla necessità di cominciare ad affrontare i primi elementi di razzismo che anche in una città come questa, che era la città di sinistra per antonomasia, che però era una città molto solidale con i propri abitanti, ma molto ostile rispetto ai nuovi cittadini. come era stata in qualche modo abbastanza ostile all'ondata di studenti di fuori sede che erano stati il nucleo sociale più forte del movimento del 77. Quindi Mongolfiera ebbe questa trasformazione e a un certo punto l'esperienza si concluse, perché comunque gestire un giornale settimanale cartaceo aveva dei costi elevati, non essendoci alle spalle editori forti, la questione economica divenne una questione fondamentale per la sopravvivenza. Ma si chiuse e nel giro di 7-8 mesi si riaprì con un'altra modalità e divenne Zero in Condotta. Insomma, Zero in Condotta, il titolo uscì da un vecchio film, da Cineforum, il film che abbiamo fatto vedere stasera alle 18, insomma, Zero in Condotta di Jean Vigo, un film di un regista francese del 1933, che all'epoca rappresentò un'esperienza cinematografica estremamente di rottura, sia per i temi di cui trattava, cioè una rivolta di bambini di un collegio appunto in Francia, bambini che appunto si ribellano al direttore molto repressivo, vanno sui tetti, occupano il collegio. Quindi ci sembrava che questo titolo di questo film fosse il titolo adatto per un giornale che doveva rappresentare in città appunto le forme di ribellione sociale che comunque tornavano ad affacciarsi. Il movimento della Pantera, le prime esperienze dei centri sociali, e quindi Zero in Condotta comincia ad avere appunto un occhio di riguardo a questo tipo di dinamiche, a questo tipo di città, fino ad arrivare poi al movimento No Global, il movimento di Genova del 2000, e quindi tutta l'esperienza del giornale cartaceo, insomma, che era un giornale che è arrivato fino a una tiratura tipo settimanale, distribuito nelle edicole, si conclude nel dicembre del 2003 con l'organizzazione di un grosso evento al Teatro delle Celebrazioni, tra Emi Giuliani, che era uno spettacolo teatrale che raccontava l'inchiesta, la controinchiesta appunto dell'uccisione di Carlo e quello che, diciamo così, l'inchiesta ufficiale avevano nascosto riguardo appunto l'assassinio di Carlo Giuliani. Poi c'è una pausa di qualche tempo e si arriva poi a questa esperienza utilizzando uno strumento diverso che è internet, che è il web, insomma, rispetto alla caratteristica cartacea che avevano avuto i giornali in precedenza. Ed è un'esperienza molto cioè, a parte la mia presenza, insomma, che è un po' il filo di congiunzione. Tutti gli altri redattori sono ragazzi, soprattutto universitari, insomma, che hanno fatto l'esperienza del movimento e che hanno dato anche un'impronta nella gestione e nel taglio che il quotidiano online ha avuto, completamente diversa dalle esperienze precedenti, perché proprio è una cosa che teneva conto da una parte della nascita del mediattivismo che rispetto al movimento antiglobalizzazione ha avuto un ruolo fondamentale sia a livello video ma sia anche a livello di gestione dei siti, ma al tempo stesso cercava anche di cominciare ad analizzare nuove forme di giornalismo, il cosiddetto giornalismo partecipativo, cioè la possibilità che uno strumento come il web dava di connettersi agli eventuali lettori e possibili lettori perché fossero in prima persona anche loro produttori di informazione. Questo meccanismo non è un meccanismo che insomma, ha funzionato come poteva essere l'intenzione iniziale, anche perché poi c'è stata un'evoluzione grossissima, la nascita dei blog, e quindi da questo punto di vista una forma di comunicazione molto individuale, dove le persone che hanno le cose da dire le dicono in prima persona e gli altri al massimo fanno dei commenti. Ecco, però quello che abbiamo cercato di mantenere come un elemento che poteva rappresentare la continuità con le esperienze precedenti era il discorso di un lavoro redazionale collettivo, perché l'elemento centrale, voi avrete letto in questi anni appunto le pagine web di Zero in Condotta in vari momenti, e avrete visto che gli articoli non sono firmati. È una scelta politica della redazione, perché in questo modo abbiamo cercato di volere trasmettere il fatto che quel lavoro che viene fatto è un lavoro di tipo collettivo. Gli articoli che escono sotto forma di inchiesta o sotto forma di speciale rispetto a determinati argomenti, o anche articoli dove vengono espressi dei contenuti di tipo politico, che non si limitano soltanto, diciamo così, alla ripubblicazione di cose prodotte dai collettivi e quant'altro, sono articoli speciali, inchieste che vengono discusse collettivamente e vengono in qualche modo decise collettivamente, cioè vengono anche modificate collettivamente. E questo è un aspetto a cui teniamo parecchio, perché pensiamo che il lavoro collettivo di redazione, che parte da un'esperienza, da delle esperienze precedenti, sia una cosa molto importante. L'ultimo aspetto è una frase che nel libro c'è, secondo me è molto importante per far capire cos'è Zero in Condotta. Si dice: Zero in Condotta non è un giornale scritto all'interno di una stanza, ma è un giornale scritto in mezzo alle lotte, in mezzo ai conflitti sociali, in mezzo alle situazioni dove si determinano interessi culturali, politici e sociali. E la nostra volontà è quella di continuare con questa esperienza, mantenendo con questo orizzonte e questo filo conduttore. Bene, intanto grazie a Valerio per questa già secondo me densa diciamo fotografia scattata tra quello che era ieri e quello che è oggi, chissà quello che, insomma, presumibilmente può essere anche domani. Apro solo una parentesi: è orizzontale questo progetto, è orizzontale il lavoro della redazione, e insomma è orizzontale anche questa presentazione, nel senso che ovviamente se c'è la voglia di dare un contributo, di intervenire, di fare delle domande, lo segnalo già da adesso, che ovviamente c'è la possibilità, basta farsi vedere. Nell'attesa passo, insomma, alla seconda domanda, al secondo intervento, in questo caso di Stefano, al quale ovviamente chiedo un po' di riportare eventualmente gli spunti che ritiene più interessanti rispetto a come anche lui vede, immagina e vive questo progetto. In più gli chiederei anche diciamo una domanda più specifica, più, se vogliamo, personale, perché, insomma, Valerio ci ha un po' spiegato come questo, come, insomma, le precedenti esperienze si sono un po' riversate in questo nuovo progetto, come si è passati da un certo tipo di impostazione a un'altra. Nel tuo caso tu non hai fatto parte dell'esperienza di Zig.it dai primi momenti, però hai deciso, insomma, di cominciare a contribuire, a collaborare più di recente nella seconda fase anche di questo progetto web e multimediale. Ti chiedo anche perché, insomma, cos'è che spinge poi oggi nel 2018 a cercare di darsi da fare per portare avanti un'esperienza di questo genere. Sì, io collaboro con la redazione Zig nell'ultima fase di questi 10 anni, negli ultimi 2, è stato allo stesso tempo un'apertura su quella città che raccontava Valerio, perché io l'ho incontrata poco prima di incontrare anche Zig, ed è stato qui ci metto soltanto la considerazione personale, perché poi dopo magari aggiungo qualcosa sul contenuto in sede del giornale. Ma è stata un'esperienza straordinaria, perché mi ha permesso di vedere da vicino una città nelle sue manifestazioni meno, appunto, meno visibili a tutto un altro pezzo di città. Me ne sono reso conto nel tempo che è stata un'apertura sul mondo per me che arrivavo qui. Mi ha subito me ne sono subito uso una parola forse non tanto adatta, ma innamorato di Zic stesso, perché è capace di prendere di mira il potere nelle sue dai suoi vertici, no? Perché mette in discussione ciò che, in questo caso proprio per la sua impronta specifica veramente cittadina, prende di mira il potere cittadino, in particolare quello più politico. E però nello stesso tempo racconta di tutte le vicende che nascono fra le strade di questa città, fra chi fra i collettivi che occupano le case, fra gli studenti che, seppure in una fase storica che sicuramente ha poco a meno di quanto ha avuto negli anni 60-70, ma quotidianamente tentano di portare una serie di temi sotto gli occhi del resto della società, che probabilmente è anche più sorda rispetto a un periodo precedente, ma sicuramente è anche una fase storica in cui si ridefiniscono tante cose che in altri momenti erano più, potevano fare più breccia, potevano interessare di più le persone. Invece sicuramente c'è una forma di atomizzazione. Ecco, per me è stato entrare in un collettivo che fa del raccontare quello che succede, che ritiene interessante, che appunto va dalle organizzazioni collettive fino alle situazioni invece magari di singoli che in difficoltà. E penso, e è una cosa a cui faccio spesso riferimento, sia quando ne penso con me stesso, quando ne parlo con qualcun altro, su Zic si parla di chi viene sgomberato dal lungo Reno, dove si accampa, come di chi invece agisce sulla città, insomma, le tante storie che questa città tiene insieme. E sulla natura più di attivismo, per me è stato un salto in avanti, nel senso che di mediativismo mi sono trovato in tanti contesti anche nelle piazze, quando c'erano i cortei, quando c'erano varie manifestazioni. Insomma, parliamo degli ultimi 2 anni, ma penso agli studenti davanti alla mensa, penso sempre agli studenti nelle loro varie iniziative belle vivaci. E lì mi sono trovato con il mio telefonino a fare una videocronaca di quello che succedeva, ed è stato, insomma, emozionante, ma mi ha anche un po' formato nello stare lì dentro, mi ha dato un pezzettino in più, un senso in più al mio essere lì, e magari sarei stato soltanto a pensare, cavolo, stanno facendo una roba che per me è assolutamente giusta, condivisibile, ma non, che faccio? Faccio il video, faccio un po' di racconto di quello che succede, e ne sono molto contento. Penso all'ultima manifestazione in cui una buona parte di città è andata a dire che no, Forza Nuova lì non avrebbe dovuto fare il suo comizio, e lì nel raccontare, riportando le immagini di quello che succedeva, riuscivo a tenere insieme quella cosa lì, insieme al fatto che ero lì anch'io a dire no, non dovrebbero proprio fare questo comizio qui dentro, perché Bologna non li vuole e li vorrebbe cacciare via, o almeno una parte di Bologna, quella che si dà da fare di più, insomma, quella che ci tiene a tutta una serie di cose. E basta, quindi un pezzetto di racconto di quello che è la mia esperienza nel giornale. Sicuramente un pezzetto di racconto, ma un pezzetto di racconto importante, nel senso che credo sia molto utile restituire una delle due facce più importanti della medaglia di Fizik, nel senso, penso che dalle parole di Stefano trasparisse molto della parte più, se vogliamo, di pancia emotiva, più direttamente politica, che fa vivere un'esperienza di questo genere. Credo che uno degli aspetti, forse l'aspetto che più caratterizza e rende peculiare questo progetto, sia tenere insieme tutto questo con la, diciamo, anche la volontà, speriamo la capacità, di fare anche uno strumento di comunicazione e di informazione anche, diciamo, affidabile, ragionato, e capace anche di confrontarsi con, diciamo così, le sfide, le innovazioni che nell'arco di questi 10 anni si sono fatte avanti. Quella cui accennava anche Valerio, della self-communication, insomma dell'autocomunicazione di massa, che porta molte persone probabilmente a non ricercare più uno strumento come un giornale per comunicare, per informarsi, perché ci sono altri mezzi più individuali a cui si è spinto, insomma, a cui è più facile oggi affidarsi. Altre sfide come, insomma, il dilagare delle fake news, i rischi dell'overload informativo, quindi dell'eccesso di informazioni, che porta spesso a rendere difficile la capacità di isolare ciò che davvero è interessa ed è utile dal rumore di fondo. E un'altra sfida importante è sicuramente quella della multimedialità. Io prima colpevolmente ho dimenticato, ho tralasciato una terza parte molto importante del volume, perché potete vedere sia nel corso del riepilogo dei 10 anni, ma anche nella parte finale, una parte molto importante di questo libro, e quindi una serie di fotografie, che sono quelle che, insomma, una piccola selezione delle migliaia di fotografie pubblicate in questi anni, che un po' aiutano sicuramente a raccontare quello che è successo in questo decennio di movimenti a Bologna. Sono una parte delle foto che vedete anche alle nostre spalle, che vedete nella mostra che è allestita qui in questa sala.